Samir è un entusiasta. È il sale di questo mondo in decadenza. Gente come lui ci salverà, se vorrà. Io spero che lo faccia. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 di un mercoledì qualunque, 20 aprile 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. La vita di provincia. La vita di provincia è malinconicamente sublime. In Italia le persone che vivono nelle città con meno di 50.000 abitanti sono molto di più di quelle che vivono nelle grandi città. Cioè, è molto più frequente vivere in una provincia come Brescia o come Campobasso, che sta in Molise, per chi non lo sapesse, piuttosto che vivere in una città come Catania o come Roma. E io vengo proprio da là. Vengo dalla provincia tipo, un paese di 5.000 abitanti in provincia di Novara, che invece di abitanti ne ha poco più di 100.000. Sono diventato grande con un gruppo di amici con cui per lo più si andava in un pub che si chiamava, e si chiama credo, Public House la sera, e si giocava ai giochi di ruolo al pomeriggio. Si passavano le serate in mezzo a persone come noi, che facevano cose come noi, anche se non sapevamo bene esattamente che cosa facessimo noi. È stato un bel periodo quello, è stato un bel periodo anche perché poi io da lì me ne sono andato, e quando te ne vai, poi tornarci è anche piacevole. Però la vita di provincia è sostanzialmente diversa da quella della città. Ieri ho portato Samir proprio lì. È stato divertente vederlo in mezzo ai miei amici, in un posto che per me è così ordinario come la provincia italiana del nord-ovest. Ecco, oggi vorrei fare proprio quello. Oggi vorrei fare una fotografia di una serata della provincia italiana. Vale tutto, eh? Ovviamente vale il sud, vale il centro, vale il nord, est, nord, ovest. Se vivete in provincia e ieri sera avete fatto una cosa normalissima, niente di che. Le cose che si fanno di sera dalle vostre parti, partite di poker, a briscola, cene, aperitivi. Se siete andati in un locale vi siete sbronzati, se siete andati al cineforum oppure al multisala. Se avete limonato duro o avete fatto cose in macchina, se avete giocato una partita o visto la partita, se avete fatto volontariato, se siete andati in un locale di lap dance. Oggi si parla di questo, ieri sera in provincia. Ecco, io sono qui. E dov'è che vuoi scappare? A Berlino. E perché? E perché? Hai visto dove stiamo? 800 24 0024 è il numero per chiamare, è verde, quindi è gratuito in diretta, oppure 349 238 6666. Oggi si parla di quello, si parla di ieri sera in provincia, quindi solo persone che chiamano, diciamo, da sotto le 50.000 abitanti, giusto? Sotto persone che chiamano da città, sotto i 50.000 abitanti o da paesini che stanno nella provincia italiana. Dicevo prima, compreso Campobasso, CB, capoluogo di provincia, certo, la targa è CB, giusto? È nato, non vi dico cosa è successo con Sara di Campobasso. Ieri su Facebook mi hanno preso a male parole per il semplice fatto che sai quelli che c'hanno il tono proprio nel messaggio, ma come fai a non sapere dov'è Campobasso? Ma il Molise. Ragazzi, ho capito dov'è adesso. 800 24 0024. Margherita: ieri sera sono andata a casa di un amico fisioterapista, mi sono fatta manipolare gratis, abbiamo fumato una sigaretta in giardino e siamo andati nel locale dove lavoro per bere un amaro gratis. Ma niente limone anche questa volta, Margherita, c'è della malinconia nelle tue parole. Esther: abito da sempre in provincia di Milano, non ne andrei, proprio fierissima di questo. Esther: ieri sera ero a casa di amici per cena, abbiamo visto la partita, buon cibo, buon bere, eccetera eccetera. Sashi o Saki, non mi ricordo mai, nella solita gelateria con i soliti amici. Alessandra: provincia di Bergamo, ieri sera come sempre prove di canto del coro per il concerto del 30 aprile, messa di gloria di Puccini. 800 24 0024, teniamo su la provincia italiana. Giulia: provincia di Treviso, ieri sera lezione di hydrobike. Che cos'è? Sarà la bicicletta nell'acqua, eh? Tu mi guardi, tu mi vedi, dici questo è scemo. Però effettivamente lo sono, però se leggo le cose magari ci arrivo. E poi al solito posto, a bere qualcosa con la solita gente che si incrocia lì. Simona, in provincia si esce il mercoledì, mi scrive Simona. Direi di no, perché ieri sera molti sono usciti. Alessandro: in provincia si muore di pizzichi? No, questi sono messaggi che non capisco. Paola, provincia di Bologna, ieri sera con amici in piazza. Stasera una festa al castello di Galeazza con concerto. Vivere in provincia è veramente impegnativo. Qualsiasi cosa abbiate fatto, ieri sera, oggi facciamo una fotografia. Ieri sera in provincia, 349-238-6666. Tra un mese invece, tutta la radio, compreso tutta la troupe di Io Sono Qui, anche Viola immagino, giusto? Anche Viola. Saremo al Salone del Libro, che poi si chiama Fiera del Libro, Matteo. Si chiama Fiera del Libro di Torino. Sì, credo proprio di sì. La sto dicendo con la solita saccenza, per cui verrò castigato tra 5 secondi dopo che Viola sarà andata a cercare. Comunque avete capito che cos'è. È all'Ingotto, ci sono i libri, li vendono, li fanno vedere. Si chiama Salone Internazionale del Libro di Torino. C'è tutta la radio e noi saremo là. C'è una piccola bagarre sul giorno in cui ci saremo. Giovedì o venerdì, anche se in redazione sarà deciso di non dirlo. Però voi tenetevi pronti. Tenetevi pronti non solo a venire, ma a portare con voi un racconto. Un racconto che racconta un episodio della vostra vita che più vi rappresenta. È facile. Vi chiedo una cosa, però. Non è un concorso per giovani scrittori. Quindi, se avete scritto un libro e volete farmelo leggere, la risposta è no. Non siamo una casa editrice, non sono un editor e soprattutto non verrà pubblicato niente. Vi chiedo proprio di fare uno sforzo. Anzi, ve la butto giù così. Questo è un progetto tra voi e Radio 24. È un progetto tra voi e me. Ok? Per cui scrivete un racconto, se avete voglia di farlo, scrivete un racconto di una pagina di un episodio della vostra vita realmente accaduto che meglio racconta di voi. Non è così immediato, ma se vi mettete lì un po', ci pensate, lo trovate. È un episodio felice, o magari no, un episodio di quando eravate bambini, o magari di 2 giorni fa. Qualsiasi cosa che quando ci pensate dite, ecco, io sono lì. Io sono qui, @radio24.it per mandarlo, oppure lo portate a mano in copia cartacea al Salone del Libro di Torino, Salone Internazionale del Libro di Torino, tra meno di un mese, il 12 e il 13 di maggio del 2011. Oggi si raccontava di provincia per questo motivo qua, perché ieri ho preso il tunisino e siamo andati nella provincia italiana. Ogni volta che guardo una chiave mi sorprendo come se vedessi accadere un miracolo. Lo so che è un semplice oggetto di metallo e che gli ingranaggi che fa girare sono di facile comprensione, lo so. Non è l'aprirsi di una porta la cosa che mi fa commuovere. È l'esistenza di così tante diverse possibili e necessarie combinazioni. Mi spiego. Pensate a quante chiavi esistono, anche solo in Italia. Diciamo tanti milioni, ok. Non parliamo nemmeno delle copie, è solo delle singole chiavi. Ogni chiave apre una serratura. È una sola. È così, si sa. Com'è possibile? Questo è un mistero oscuro che nemmeno la spiegazione su come viene costruita una chiave mi ha mai aiutato a capire. Dico, pensate a tutti gli appartamenti, ai portoni, le cantine, le automobili, i motorini, le fabbriche, i negozi, i lucchetti delle biciclette. Per ognuno esiste una e una sola chiave. Io ogni volta che lo dico non ci posso credere. È un po' come il codice a barre. Una combinazione unica di cunette e piccoli dossi metallici e là una combinazione unica di strisce nere e bianche di diversa grandezza. Solo che con le chiavi è diverso, perché non c'è, come nel codice a barre, una sola mente pensante che organizza tutto, no. Le chiavi sono fatte un po' così, a caso. E ovviamente nascono molto prima di internet. Ecco, allora quello che io faccio ogni tanto è provare a vedere se una delle chiavi che tengo in tasca apre qualcosa che incontro. Non è voglia di rubare, è che sono curioso di vedere se per caso funziona. Come quando davanti a una macchina di qualcun altro provi ad aprirla con il tuo comando a distanza, o provi ad aprire il cancello elettrico di qualcun altro. Ecco, a me non è mai successo niente del genere. Però io sono certo che da qualche parte esiste una serratura che non conosco che una mia chiave può aprire. Così, per caso. Perché ci sono cose che sembrano fatte per un posto e invece stanno bene in tanti posti. Come Samir. Samir è una specie di passepartout, che poi anche la questione del passepartout me la devono spiegare. Samir apre tutte le porte. Lui sta bene dappertutto. Non è che sia un santo o abbia delle qualità sovrannaturali, eh? No. Lui dove lo metti sta. È arrivato a Milano e dopo 2 giorni sembra che sia sempre vissuto qui. Mi ha mostrato delle cose della mia città che non conoscevo. Ha fatto amicizie. Gira come fosse casa sua. I suoi ingranaggi si sono perfettamente incastrati con quelle del nuovo mondo. Il nuovo mondo che in qualche modo l'ho accolto. E allora mi sono detto, voglio vedere che cosa fa Samir se lo porto in provincia. Perché alla fine è così, l'Italia è fatta molto più di provincia che di città. E lui, chi lo sa, magari è veramente un supereroe. Ma perché in fondo qui a Milano essere straniero non è impossibile. Però prova a essere un forestiero a Montebelluna o a Ziano Piacentino. Non è così facile. E allora ieri l'ho portato a Novara, dove avevo qualche amico da andare a trovare. E l'ho messo alla prova. Vediamo se Samir apre anche questa porta. È spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu. Ma se cancelli il mio ricordo, succede che son morto, vedi non esisto più. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà. Non c'è confine di proprietà, la cariola dove va? A cena eravamo in sei. Con i miei amici di quando ero piccolo siamo rimasti tutti un po' piccoli, cioè abbiamo delle abitudini molto semplici. Ci piace così. La nostra serata tipo è fatta di mangiare tanto e poi scegliere un gioco di società. A volte giochiamo a carte perché siamo anziani dentro sin da quando avevamo 20 anni. A volte altra roba da tavolo. Però nelle occasioni più importanti, tipo ieri, andiamo al bowling. Che il bowling, sì, è un gioco americano e non c'è niente di tradizionale, non c'entra niente con la provincia di Novara, con il nord Italia, però chi se ne frega, in fondo anche il poker lo è, no? Poi ci diverte, ci mette in competizione, che alla fine è la cosa più importante. Ci consente di prenderci in giro e riderci addosso. E poi ci sono quelle meravigliose scarpe bicolori da indossare. Le scarpe che hanno indossato migliaia di persone prima di te, che il tizio al bancone gli spruzza lo spray dentro prima di dartele. Samir è venuto con me ieri sera ed ero curioso di vedere come se la sarebbe cavata in un gruppetto come il mio, no? Con gli amici, che non è esattamente la gente che incontreresti a Times Square o a Tunisi. Al ristorante Samir ci ha surclassati, mangiando due porzioni di paniscia, che è il risotto di Novara, seguite da polenta e brasato. Ha bevuto dolcetto con la stessa voracità con cui un cammello beve acqua prima di attraversare il deserto. E non finiva più di parlare di quanto era buona la cucina novarese. I miei amici si erano innamorati di lui. Quando poi ha deciso di chiedere del gorgonzola perché si sa che la bocca non è stracca se non sa di vacca, loro hanno alzato i calici e gli hanno dedicato un brindisi. La cosa che li ha colpiti di più è stato il fatto che Samir non si è ubriacato. Perché lui regge il vino. È musulmano, ma come molti non è un integralista e i loro superalcolici sono molto più potenti dei nostri. Quindi lui regge quanto una portaerei. Era talmente felice che ha detto che voleva trasferirsi lì, a Novara. Gli abbiamo detto che in provincia ci sono pro e contro, che è un posto un po' chiuso, magari ci sono poche sollecitazioni culturali. Lui ci ha guardato e ci ha chiesto se avevamo mai vissuto in Tunisia e lì noi siamo stati zitti. Arrivato al bowling, si è chiuso in un silenzio commosso. Il posto gli ricordava il suo film preferito, Il Grande Lebowski. Io l'ho guardato e gli ho chiesto se l'avesse visto al cinema e lui mi ha detto no, l'ho scaricato. Me l'ha detto mentre piangeva di felicità. Di bowling non aveva mai visto uno dal vero. Abbiamo preso scarpe e armamentario e ci siamo messi in pista a tirare. Lui imitava John Turturro in un modo così perfetto che era irresistibile da vedere. Tutti si giravano e ridevano, anche dalle altre piste. E poi tirava alla grande. Praticamente uno strike via l'altro, uno stile ineccepibile. Sottovoce mi ha detto che aveva imparato guardando il film tante volte. E poi mi è passato di fianco mentre io sparavo la solita ciofeca da 3 birilli laterali. E allora ho pensato che forse non era una questione di essere la chiave che per caso va bene in tante serrature. No, era proprio Samir che andava bene un po' dappertutto. È lui che è uno sveglio, che è uno capace di imparare, che è curioso e intelligente. È uno che non sta fermo. Chissà, magari è un genio, o magari no. Un po' come Leonardo nel film di Benigni e Troisi, che loro arrivano dal futuro e cercano di spiegargli come è fatto un treno, però non lo sanno nemmeno loro. E dopo un po' lui spunta su una locomotiva. Samir è un entusiasta, è il sale di questo mondo in decadenza. Gente come lui ci salverà, se vorrà. Io spero che lo faccia. Intanto poi ieri sera per portarlo via dal bowling ho dovuto usare tutte le mie forze, perché non si staccava dalla pista. Solo quando hanno chiuso le luci ha smesso di tirare. Aveva 30 euro in tasca. Ce li aveva vinti scommettendo su se stesso. Ed è riuscito a convincere il padrone del locale a vendergli una boccia, usata. una di quelle che sembra che pesino 100 kg. Se l'è presa in braccio e se l'è portata a casa. Che per uno che ha attraversato il mare con uno zainetto, una zavorra così proprio ci voleva. Ecco cos'è. Samir è un passepartout. Samir è un grande. E io non pensavo che l'avrei mai pensato. E dallo sguardo che fa mentre torniamo a casa, capisco che è felice. E io lo sono con lui. I think of you, each and every day. I guess I'm right under your spell. No, you don't want me to go. And every part of me is begging me to stay. I look at your wide open wings. Now I know I wanna follow you, follow you. Ieri sera corso di canto, oratorio, dentista, casa a cucinare. Ho scritto un po' di articoli per i giornali, aggiornato qualche sito, poi un libro, ma sono crollato dopo 10 minuti dal sonno. Anche perché Fabio, vorrei capire quanto è durata la tua serata. Irena, provincia di Bergamo, a casa, una partita di burraco con il mio compagno e poi a nanna. Daniele, provincia di Padova, sui Colli Euganei, partita di calcetto all'aperto con amici. Giulia, provincia di Catania, partita bowling. Maria, scuola serale, geografia e francese, cena, poi il RIS, delitti imperfetti. Io prometto, lo prometto, che mai durante questa puntata userò un'esclamazione tipo «Uè, seratona ieri, eh?». Andiamo invece in una provincia che conosco molto bene, che sta in Abruzzo, ed è la provincia di Chieti. Pronto, Maria? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, tu però non mi devi dire solo provincia di Chieti, mi devi dire il paese. Vasto. Vasto, ma scusami, perché dici provincia di Chieti? Il più famoso Vasto di Chieti. Beh, è la provincia, d'altronde mi è stato chiesto, l'ho detto. Giustamente, no, giustamente. Direttamente da Vasto, quanti anni hai, Maria? 42. 42, che cosa fai nella vita? Io mi occupo di riabilitazione cognitiva con ragazzi disabili, da 22 anni. Quindi sei fisioterapista? No. Sì, praticamente sì. Perché ti fa ridere? Perché non sei una fisioterapista, lo sei diventata, una roba del genere? No, mi spiego. Allora, lavoro per una fondazione che si occupa di riabilitazione in toto di tutta la persona. Ho capito. E io lavoro con ragazzi disabili, con varie disabilità, e mi occupo prevalentemente di riabilitazione cognitiva e di tutto il loro, diciamo così, benessere psicofisico totale. Tutto questo nella provincia di Chieti. Sì. Senti, andiamo invece alla parte interessante. Una sera in provincia, ieri in provincia di Chieti, a Vasto, cosa hai fatto ieri sera, Maria? Ho fatto l'amore con mio marito. Ma e lo diciamo come se fosse un evento oppure è, diciamo, pratica comune nelle sere di provincia? Che fa... No, non è un evento assolutamente, perché penso che dopo 16 anni di matrimonio spesso si sente che ci sono coppie stanche, annoiate. Invece voi dritti proprio come dei fusi, non vi fermate mai, Maria? No, neanche quello, perché ieri sera avevamo il figlio che era una festa con degli amici, allora avevamo pensato di andare a mangiare qualcosa fuori. Io spero che... Ma l'avete fatto fuori? Finito di cenare, si è andati a fare quattro chiacchiere in macchina e poi, visto che passa un bellissimo golfo lunato con il mare, sì, stupendo, ci siamo fermati in un solito posto dove andavamo quando eravamo decisamente più giovani. Questo vuol dire che l'avete fatto in macchina? Sì. Ma siete i miei eroi. Ma quanti anni ha tuo figlio, Maria? Mio figlio ha 15 anni. Spero che non stia ascoltando la radio. No, io lo spero, perché potrebbe essere traumatizzato per tutta la vita, perché i genitori lo fanno in macchina davanti al mare a 42, o magari no, invece, magari ne sarebbe felice. Senti, quindi una serata come ieri era un martedì qualunque, vuol dire che abbiamo una media settimanale attorno ai? Beh, 3-4 volte la settimana. Mazza, ragazzi. Maria, ti ringrazio moltissimo e direi viva la provincia di Chieti, buona giornata. Grazie, ciao, Matteo, grazie. Passione, ciao, grazie. Ciao. Adesso cosa? La borsa, adesso mi ha sconvolto questa roba delle 3-4 davanti al mare. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto aquí. Nella foto di oggi invece siamo in cima a una montagna, credo che sia una vetta piuttosto alta. Sullo sfondo si vedono le cime forse dell'arco alpino, siamo su uno spiazzo nevoso e il protagonista della foto è un uomo, è totalmente in controluce, quindi si vede giusto la silhouette. È un uomo con le braccia alzate, un pile degli occhiali da sci sulla testa e un'imbragatura, quindi non fa sci di discesa, probabilmente fa sci di salita, come si chiama, non telemark, non mi ricordo, già sci alpinismo banalmente, quello con la pelle di foca sotto. Ripeto, si vede poco perché è in controluce, però ha la faccia piuttosto soddisfatta. Camillo Moranduzzo, 38 anni. Misurarsi con la natura ti costringe alla riflessione e all'essenzialità. Io ho conquistato la mia vetta con gli sci ai piedi e questo mi ha spiegato qualcosa in più di me stesso, di quello che sono e di come sto ora. E sono felice. Sulla cima del Mont Velan, io sono qui. Mi piacciono quelli come Camillo che sono precisi, che non sgarrano. L'unica cosa che non ha detto esattamente è dov'è il Mont Velan. Dov'è il Mont Velan? Qualcuno sicuramente lo sa. 349-238-6666 dicono Val d'Aosta dalle altre parti. Val d'Aosta, d'altra parte, anche quella è una provincia. E in provincia succedono cose come queste. Simone, provincia di Bergamo, birra canonica al bar del paese. Degna conclusione di serata, giocare a carte. Prima briscola e poi a merda. Che è quel gioco orribile in cui metti urli e metti giù le mani sul tavolo. Paolo al momento vince però. Assemblea condominiale. Abbiamo visto la cassetta della video ispezione degli scarichi fognari del condominio. Una specie di rectoscopia condominiale. Chiara, sono andata a cena in una trattoria in collina. Eravamo in quattro, gli unici avventori. Siccome ci stavamo dilungando in vino e chiacchiere, per farci capire di smammare, la cuoca e la figlia cameriera, a un certo punto sono uscite in sala con la tazzona e il filtro della camomilla dentro. Erano le 11 di sera. 800240024. Andiamo in provincia di Siena. Fabio, pronto? Buonasera. Ciao Fabio, provincia di Siena dove esattamente? Sinalunga? Sovicille. Io conosco solo Sinalunga e quindi ho detto ovviamente... Sinalunga è un po' più bello Sovicille. Cioè Sinalunga è bruttissimo? Ma rispetto a Sovicille è sotto la montagnola senese, quindi... Benissimo. Adesso tutti quelli di Sinalunga scriveranno insultando me e te. Cosa si è fatto ieri a Sovicille? Una cosa molto bella, sono stato in chiesa a fare le prove di canto per la messa di Pasqua, quindi con gli amici abbiamo provato i canti. Fai parte di un coro quindi, Fabio? Sì, molto, molto piccolo, ma comunque ben affiatato. Come fa a essere piccolo un coro, scusami? Quanti siete? Perché il paese è piccolino, quindi saremo 6-7, diciamo. Quindi... Ma il coro di solito vale sopra i 20, no? Ma noi ci definiamo coro lo stesso perché cantiamo forte. Quindi... Senti, che canti cantate? Canti di chiesa, immagino. È chiaro, c'è la messa di Pasqua. Giustamente, perdonami, non i canti del Siena Calcio. Ma senti, ce n'è qualcuno in particolare che ci fai due strofe? Dai, ora mi vergogno. Ti vergogno, hai ragione. Un po' mi vergogno anch'io. Prossima volta vi chiamiamo tutti, tanto siete in sé. Ma no, ma scusa Fabio, ma siete in sei gatti che cantate. Non sapete cosa vi perdete, dai. Vi chiamiamo tutti insieme e cantate in coro al telefono, mi sembra più facile. Fabio, grazie mille, buona giornata. Buone, a presto. Ciao, grazie. Ci ha messo proprio giù in faccia il telefono. Ieri sera da cinese... ristorante cinese, birra amici, succedeva anche 15 anni fa. Il bello di vivere in un paese, 700 abitanti, birretta e due passi sul molo davanti a un mare pigro come solo in Liguria può essere. E poi ancora, stasera riunione della squadra del paese, ieri sera prima volta a letto con il parroco. Cosa vuol dire? Aspetta. Ieri sera per la prima volta a letto con il parroco, la provincia sa essere banale, Roberto. Ma no, vuol dire a letto con il parroco, vuol dire a letto presto. Cioè tipo a letto come le galline. Sì, credo che voglia dire una roba del genere. A letto presto. Sì. Speriamo. Si muore di pizzichi, mi dicono che significa si muore dalla noia. Vabbè, usciamo da questo ginepraio. Andiamo da Vasco, dalla provincia di Brescia. Pronto Vasco? Pronto. Ciao. Che, provincia di Brescia dove? Provincia di Brescia... Pontoglio. Ok. Conosco, ho deciso che tutte le volte che dite una provincia dico il nome del paese che conosco. Conoscevo Castanedolo e invece non è quello. No, Castanedolo rimane a circa una ventina di chilometri. Benissimo, verso Brescia. Benissimo. Allora, cosa avete fatto ieri sera, Vasco? Ieri sera, guarda, come da 11 anni ormai insieme ai miei amici frequentiamo questo locale che è a Palazzolo, il paese giusto attaccato al mio. Sì. Dove giochiamo a calcio balilla, c'è chi guarda le partite, io personalmente no, perché il calcio non lo sopporto. Sì. e beviamo dell'ottima birra. Quanti anni hai, Vasco? Quanti anni avete? Io ho 28 anni, i miei amici hanno circa un paio d'anni in più di me, comunque siamo tutti su questa età. È uno straccio di fidanzata, no? Sì, la fidanzata ce l'ho, però non, in questo momento si trova a Bologna perché io faccio l'università a Bologna e insomma, faccio un po' avanti e indietro da Bologna e la provincia. E il fegato come va? Il mio fegato potrebbe andare meglio, ti direi, potrebbe andare molto meglio. Grazie Vasco, buona giornata. Buona giornata. Ciao, andiamo in provincia di Pavia da Emanuele. Pronto Emanuele? Ciao Matteo. Ciao, provincia di Pavia, quindi direi Binasco. No. Sono, allora, Miradolo Terme, precisamente Campo Rinaldo, benissimo. Forse non ti dice niente, ma il paese natale di Gerry Scotti. Oh, guarda, effettivamente stavo dicendo, ma l'ho già sentito, ecco. Grande, grande Gerry. Senti, dimmi che cosa hai fatto ieri sera. Niente, ieri sera, verso le 7, ho chiamato mio cugino e gli ho detto, andiamo a pescare perché non ce la faccio più stare in casa. Allora sì. Sono andato a prenderlo e abbiamo preso dietro il fiume di casa, ci siamo messi lì a pescare e non abbiamo preso niente. Quanti anni hai Emanuele? 27. No? Senti, però poi la tua vita di solito va meglio di così, intendo dire, cioè non passi proprio sempre le serate a pescare nel fiumiciatolo dietro casa? No, ah. Perché sono sposato. Ah, benissimo, no, allora era proprio che volevo uscire di casa semplicemente. Sì, un po' di break dopo il lavoro. Ecco. Cosa fai Emanuele? Ma adesso sono un operaio, ho stato 8 anni in un supermercato e dopo la nascita di mio figlio ho detto cambio tutto, mollo vita, cambio tutto. Bravo. E mi sono buttato. E come va? E adesso faccio l'operaio. No, dai, sono 6 mesi, va abbastanza bene, il contratto non l'hanno rinnovato ancora. Bravo, bene. E mi trovo bene. Dai. Tieni duro Emanuele, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao, grazie a te. Ciao, ieri sera in giro in macchina con amici, facendo a gara a chi conosceva più persone. L'ultimo pagava da bere. E comunque il bello della provincia è proprio che a differenza della città si esce tutte le sere. Alfonso della provincia di Foggia. Alfonso, ieri sera questa ce l'abbiamo già. Provincia di Rieti, passata la sera a lavare e pulire broccoletti, spinaci e bieta davanti a Ballarò. Simona. Bene, andiamo oltre. Andiamo da Barbara, provincia di Milano. Pronto Barbara? Pronto. Ciao. Ciao. Grazie per essere qui. Provincia di Milano da dove? Da Trezzo sull'Adda. Trezzo sull'Adda. Come si vive a Trezzo sull'Adda? Bene, modestamente, come in provincia, si vive bene. Che cosa hai fatto ieri sera? Ieri sera sono andata in un paese qui vicino, a Trezzano, a fare le prove con la band di una scuola di musica. Quindi tu non fai parte di un coro, di una band? No, una band, sì. Che cosa suonate? Suoniamo Deep Purple, Cristina Aguilera, un po' no, di aspetta, rock. aspetta, fermati, torniamo indietro. Allora, suonate i Deep Purple e Cristina Aguilera, com'è che... Sì, è così. Siccome siamo un po'... È la provincia che fa questo effetto. Ecco, siamo dei ragazzi un po' maturi e poi ci sono anche due ragazzini di 20 anni. Un colpo al cerchio, un colpo esatto. All'Aguilera. Senti, quanti anni hai tu, Barbara? 42, ok. Sei sposata? Sei fidanzata? Sono sposata, ho 2 figlie. E cosa fai? Suoni? No, io faccio la corista. La corista? Sì, la nuova del gruppo. Benissimo, Barbara, in bocca al lupo per tutto. Grazie Buona tanto. Giornata. Ciao, Matteo, grazie. Anche a te. Provincia di Lecce, da Lorenzo. Pronto, Lorenzo? Ciao. C'è un bambino che piange dietro di te, Lorenzo? No. No, ho sentito dei versi strani. Provincia di Lecce dove? Gallipoli. Che cosa avete fatto ieri sera? Siamo andati a Caire. Caire sono dei piccoli gamberi che servono per l'esca. E è divertente perché vai, ti rilassi, vai su un molo con questo faro, il retino, e il faro illumina gli occhietti dei gamberi e dove, quando li vedi passi il retino, e li prendi e poi li conservi per la mattina dopo per andare a pesca. Quindi poi stamattina sei andato a pesca? In buona sostanza. Hai pescato poi stamattina? Sì, abbiamo preso qualcosa. Senti, ma questa è stagione di Caire, quindi? No, Caire è sempre stagione. Ah, è sempre stagione di Caire. Sì. Lorenzo, scusami, ma questa placidità che hai nell'inflessione è dovuta al fatto che sei abituato alla pesca e quindi hai questo ritmo così pacato, ma, oppure... Sì? Ma lo dicono tutti, per telefono specialmente, però non lo so, è la mia voce. Cosa fai nella vita, Lorenzo? Commerciante. Si può dire di che cosa? Sì, vendo occhiali. Vendi occhiali, benissimo. Lorenzo, sì. Questa settimana, questa telefonata mi ha dato come una sensazione di benessere, quindi ti ringrazio moltissimo. Mi fa piacere. Lorenzo, grazie mille. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Ciao. E abbiamo anche imparato cosa sono le caire. E poi qualcuno mi dice, con la mia chiave non c'entra, ho aperto la 1 bianca parcheggiata davanti alla mia, però non è partita. Ma è anche vero che le 1 bianche, le 1 si aprivano con una certa facilità con le stesse chiavi delle 1. E anche quella delle Panda. No, io non rubavo le macchine, però semplicemente avevo amici che avevano la 1. Chiudiamo questa puntata leggendo un pezzo di uno dei più grandi autori italiani, che è Pier Vittorio Tondelli. Pier Vittorio Tondelli ha raccontato una parte della provincia, l'ha raccontata in maniera meravigliosa, e questo pezzo è proprio come mi immagino quando mi immagino la provincia, su una strada, in macchina, a guardare le case e le persone che ci sono intorno. Notte raminga e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia, a spolmonare quel che ho dentro, notte solitaria e vagabonda, pensierare in auto verso la prateria, lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa. Come stare sulle piazze, a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria. Tante fantasie, una sotto e sopra l'altra, però non s'affatica nulla. Correre allora. La macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia, incontro alle colline e alle montagne, oppure verso i fiumi e le bonifiche e i canneti. Poi tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all'interno, delle discoteche o dei dancing all'aperto, ora che è agosto e hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata. Lungo la via Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti, parcheggi ampie e infine le strutture di cemento e neon violacei e spot arancioni e grandi fari allo iodio che si alzano dritti e oscillano avanti e indietro, così che i coni di luce si intrecciano alti nel cielo. E pare allora di stare a Broadway o nel Sunset Boulevard, in una notte di quelle buone, con dive, magnati, produttori e grandi miti. Questo è un racconto che si chiama Viaggio ed è tratto da un libro di Tondelli del 1980 che si chiama Altri Libertini. Grazie a lui, grazie anche a Stefano D'Andrea, grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni e a Viola Bottoni. Il Mont Velan è una montagna delle Alpi Appennine alta 3731 metri. Si trova in Valle d'Aosta. E ultimo messaggio di Vito La Crema: ieri sera io e altri tre amici, tutti 40 passati, e mentre camminavamo in paese vedevamo persone e ci ricordavamo i soprannomi. Chisuli, Iepo, Bugo, Binda, Skippy. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?